sì, sto sempre in macchina. Però quando tu aggancio la mia, posso andare un attimo in scena per fare letture, capito? Quindi magari sono i scendi, ma tra un po' di la macchina è fatta. Quello sì, anche quello è vero, non stanno prendendo piccole fai. Anche quello è un lavoro che sta, ma stavano facendo casino per questa cosa della parola. Ehi, casino giuro, credo che il primo ci sia sciolto, a quanto mi hanno detto stamattina. C'è sciopero e creeranno anche dei servizi sicuramente. Sicuramente creeranno dei servizi, perché non si può andare avanti in uscita in mano. Ci sono tutti i contratti fermi dal 2005, da quando hanno iniziato. Scatti di categoria, sistemazione del personale, eccetera, non hanno fatto niente. Ha già vinto, mi pare sicuro? Dice sì, sul serio non ho fatto ricorso perché dice che c'è qualcosa che non va. Ma adesso si arrangerà il giudice a voi, cosa dite? Quello, no, soltanto che quella che è dove sono io adesso non ha vinto a Massimo Ribasso, ha vinto a Progetto. Quando è così bisogna sempre stare attenti, capito? Comincia a saltare sempre qualche cosettina, ma poi già c'è il sindacato che li mette a posto. No, ma allora volevo fare panattina, sfogliatoio, fare male, quella roba lì. Non si è mai visto nulla. Così è. Chi è quest'ora? Chi è? La buonasera, mi sentite a tutta la ruota? Buonasera. Buon pomeriggio, buonasera. No, non so, sono io e Mauro. Non so se lo senti in macchina. Mauro, lo senti, Domenico? Lo sento, ma non molto bene, bene, Wester. L'ho sentito anch'io, dai. Ciao Mauro, buonasera, pure a te, dai. Io qua, 1-3-1 Partizia. Thank you. io faccio compagnia, se no prendo poi agganci qualche volta lì sul 5, ti fai le chiacchiere. Grazie. domani. E dopo, dopo, ciao Maria, io che andavo a piacere. No, non sono rientrato, voglio me la pizza a capo. Capo, dai. Io non aggiungo ancora, diciamo, devo prendere la pastiglia. Chiamati infiammatori, devo prendere la Maria. Ci sentiamo dopo, dai. No, non vabbè. Saluti alle cordialità. No, ma io lo smonto e poi vado là col pezzettino in mano, K. Fusaro come Romeo finale. Fusaro Vittorio si chiama. È copiato Giorgi. Roger, sì, via 4 novembre, via 4 novembre Fusaro con la RO finale K. K Roger. Oppure Melchioni, zona industriale Predanieta, Melchioni. Melchioni, bomba, adesso finché va così lo lascio, dopo non so se lo porto ancora su, tu solo per andare a prendere il freno. Sì. Dopo. Ok, fai girare per il nostro Antonio, capa. Poti aver lanciato. Neanche si deve essere spostato. Capa, mi sono un attimino spostato che sto cercando una cosa. Non riesco a trovarla. E ho le palline girate. Capa, capa. E allora, girando stiamo giù. Oggi girando, abbiamo già fatto Cagliari, abbiamo già fatto Olbia, nei dintorni qui più o meno tutte le zone, e adesso facciamo un po' di pausa e poi torniamo a girare, capa. Quanto ci devi stare qua? Fino al... ho fatto il biglietto e rientro il 4 di ottobre, però se è brutto me ne vado su prima, capa. Capa, capito. Tanto tu sei in pensione, quindi anche la tua 50 è in pensione. Negativo, lei deve rientrare, mi sembra che ti ho già accennato l'altra volta che è dovuta rientrare per forza, e ha lavorato il mese di agosto e adesso è in casa a lavorare ancora, purtroppo ancora 5 anni e KK. E vabbè, dai, diciamo che ci va bene, dai. Ascolta, l'Antonio non mi ascolta, magari posso provare a spostarmi un metro, qualcosa, capa. Antonio, un attimino che è andato a cercare della roba, tanto le proprio non le possiamo fare perché sta cercando roba che ha perso e ha detto che è un po' incavolato che non riesce a provare. Dai, allora bisogna dire il padre nostro di Santa Monica, come diceva la mia povera, mamma, capa. E gliela trova piano piano, non sai cos'è che quando c'hai il nervoso è ancora peggio. Non lo so, dipende, devi concentrare un po' e dire dove sono andato, dove l'ho messo, dove li appoggiati. Questo succedeva una volta con le chiavi dell'auto, poi avevano fatto anche qui circa lì, non so se c'erano anche qui le chiavi, e tu rispondi da sì, e sapevi dove erano, capa. Sì, c'erano anche qua. No, io quando guardo qualcosa mi faccio un promemoria, penso dove sono passato, eccetera, eccetera, faccio così. Roger, esattamente, anch'io faccio così. Capo, mi è venuto in mente una roba, sì, l'altro giorno che stavamo parlando degli scherzi, della CP, dei cosi così, ma mi è venuto in mente uno scherzo che me lo ricorderò per tutta la vita, capo. Che scherzo te l'ho fatto? Passava sempre lì nella nostra comunità, appunto nel Ticino, questo tipo, un italiano, e veniva fuori con una sigla, ciao, come state amici italiani, e lui parlava, e così tutti ci conoscevamo, facevamo un verticale quando ci conosciamo, sì, senz'altro, dopo tantissime volte, un giorno passa e fa, allora facciamo un verticale, sì, tanti parlavano e tanti ascoltavano, no? Arrivano in questo bar, si fa, ma sei da solo? No, sono due ragazzi. E siamo andati via al bar di questo posto, era uno che trasportava cadaveri dalla Svizzera all'Italia con due ragazzi che erano morti tutti eccezionali. Siamo lì, vediamo il suo carro fuori, e ma nessuno immaginava che era quel CPD, capa. E c'è proprio il baracchino nel carro fuori. Sì, facevamo anche le corse. Mamma mia che macca, bro. Trentino, qualcosa così, però praticamente da tutta la lingua, da Basilea, da Lucerna, così quando c'erano praticamente trasportare delle salve in Italia, o anziani, oppure incidenti così, lui era favorevole, si trasportava, e mentre viaggiava prima a parlare col baracchino, no, Aquila si chiamavano, ma noi nessuno ha mai immaginato che era un carro funebre, capo. Tutti quanti cosa, quando l'avete visto cosa avete fatto? Ci dà mani in mezzo li avete messi. Sono arrivato lì, che cosa succede? Qua c'è un carro fuori, è morto qualche giorno, mi sono toccato subito quegli affari di Milano. Dopo entriamo dentro, ciao sono Aquila, oh piacere, ho detto. ripeti. Antonio. E Antonio è alla ricerca, chissà cosa ha perso. Adesso io dovete di cui, per carità, la 27 c'era, qua c'era un personaggio che si chiama Falcone, e stava fatto la storia della CBD. Lui era un po', diciamo, malato di testa e cosa, e si adescava tutti i ragazzini che entravano a modulare, lui si riadescava. Un attimino, un attimo, un attimo che è quasi finito. Un paziente. Ia, va bene. Stavo dicendo, questo qui un giorno l'hanno invitato a mangiare in questa casa, gli hanno messo il buttarax del minestrone e si è fatto addosso, gli hanno messo le latici, le pantaloni, perché se lo sporcava la macchina, questo stava la compagnia. Antonio, lo sento, ma lo sento troppo forte, non riesco a capire cosa dice. Non so se sta usando ancora il medesimo apparecchio oppure se io sto spostando qualche metro, non sono nel mio posto. Ma io ho già sentito questo Falcone qua, perché Gianni, anche se ci manco 45 anni, non dico, ma 30 anni sarò venuto giù, diciamo che facevo dietro un baracchino nella macchina, così, perché c'erano problemi nella 131 quando andava a Cagliari, così, eccetera. Da te cambio. E a Cagliari piace. Ce ne sono macchinette lì. A parte le macchinette, però magari i camionisti ti dicevano guarda che c'è un blocco lì in tal posto, ci sono i carabinieri, ma attenzione c'è un chimico di riservato che non. Sai, chi di riservati già un po', scappa. Già ti salva qualche cosa. E quindi Falcone l'ha conosciuto. A quello lì hanno fatto quegli scherzi, una volta gli hanno dato l'appuntamento di sera tardi al buio. Sassa di vecchio, si sono vestiti con i lenzuoli, con le lenzuola sopra addosso, come l'hanno visto hanno cominciato a fare e a seguirlo, dice che gli toccava i pantaloni, i tacchi del sedere da quanto stava correndo. Ma no, conosciuto no, però l'ho sentito, sicuramente l'ho sentito. Bisogna ogni tanto ricompensare di cambiare questi scherzi. Ma non lui non lo fanno più modulare perché sono morti i genitori, lui aveva con i genitori, adesso se l'ha preso la sorella e non ne può sapere più di prendere il baracchino perché lo facevano incazzare da morire, proprio lo facevano uscire gli occhi. Non mi piace. Tipo drappare, tipo come ti scrivevano in giro, capa. E drappare, oh, vai lì a Filomena. Gli faccio una fotografia di Giovannino, Beghina, tutti e tre, da Giovanni Cornicianti, laggiù, pensa un po', li ho portati su, in Svizzera li ho portati giù, hanno fatto anche viaggio in traghetto da ritorno, capa. Paga, se tu vai a quel bar di San Giovanni, ci sono tutti i famosi di Sassa, il Trappadè, Blattamona, tutti i Paravà. Mi pare che Giovannino, Bebè, se poi uno va una sigaretta in bocca e ce li ho scritti, è solo che adesso mi va a prendere sul muro, non mi ricordo più come si chiamano. Tu, ti devo chiedere ancora qualcosa, Gianni Cappa. Vai, vai. Io sono, a parte un cipiota, un cipì, anche un cipista, e poi mi piace tutto. Scendo ogni tanto da qui, vado giù, passo i punti, da bancare, vado a portare la pittina. Ho visto un sacco di antenne lì, aspetta un po', lì vicino a, come si chiama, c'è un coso, non è un coso di voce, è un coso di tendi, cos'è, no, più giù di San Giovanni, c'è un coso di, allora io ho già capito di chi stai parlando, ma c'è un'uletta quella zona lì. La Marcia Guletta, bravo, sì, Marcia Guletta, sì, ma non è più di giù, Marcia Guletta, ecco lì c'è un campo da tenni, ci sono delle antenne, ma adesso c'è neanche un radioamatore perché sono, non sono tutte sulla 27, capa. È Walter Diaboliche quello lì, sono le antenne di Walter Diaboliche ed è anche un radioamatore, ogni tanto trasmette anche il 27 maiato arriviamo a Torre, è stato un grosso CB a Sassari, uno di quelli che usava potenze supersoniche, che faceva le gare di notte con Vittorio Giove e altri, cioè proprio quelli che hanno fatto storia. Cioè, non lo, io non ho mai parlato con lui, non l'ho mai sentito, però sulla anche degli amici che lavorano in certe frequenze, io vorrei raccontare così, qualche volta mi sono anche permesso di parlare come ci potrebbe, da quando la ricerca. E forse ha parlato con questo punto qua, perché lui diceva, no, quello è andato a Sardegna l'altro giorno, che... poi ce n'è un'altra, ha le punti, ha delle punti, ce n'è una capa. Sempre la sua, Lui c'ha diverse abitazioni, capito? E in ogni abitazione ce n'è anche una vicina a casa a mettere antenne. Mamma mia, ma anche lì a libera di punti ce ne sono, ma non sembra una centrale elettronica, capa? Sì, sì, sì. Io ho capito, sì, è sempre lui. No, non ce ne sono altri come lui. Lui è... Allora tu dovresti vedere... Lui lì, dove tu hai visto quelle antenne, ha fatto un bunker. Ha fatto un bunker e ha minimo 2000 radio CB. Di tutti i tipi, dalle più antiche alle più nuove. Mi immagino, solo vedere le antenne, che poi se quelle lì sono antenne tridimensionali, praticamente vengono con i rotori girate e rigirate, perché sennò non vedono niente, non vanno. Mi sa veramente gli apparecchi che per giù. Va bene, fa niente, era così informazione, dico, ma... Ok, ancora te, vedi un po' se è rientrato l'altro amicone K. Ehi, Antonio, vai. K. Ehi, tanti anni fa ne facevano gare bella. Di notte, lo facevano di notte per non disturbare. Vabbè, attaccavano 1500 watt, 1000 watt. Ne facevano tutto di più. Pure chissà come intende questo con una potenza del genere. E Padisi, parlavano con Urbia, tutti i baschi. È vero. E va pure chi di Urbia non sa tanto. Non sarà stato con 5 watt, no? Non è vero. Vabbè, ciao Luca. Ciao Luca. Ehi, Antu, come ti ho chiamato? Stamattina non ci avevo appresso. Dopo, non so che aveva chiamato, era... Diciamo che stavo chiamando, non prendi le balle. Cazzo, da... Come si chiama? Cambiare la linea, no? E l'ho messo mute. Al telefono, non l'ho sentito. Ma se c'è un fisco, infatti mi rompete le balle, boh. Ma quando vuole fare, vorrebbe un'offerta, e a voi dico un'offerta, e poi ti mancano di più di fiscali. Oh, Luca, guarda che c'è anche un altro amico, Giorni, vai. Oh, Luca, ciao, buonasera, con l'invito di saluti, ti ho appena ascoltato, e ti ho ascoltato perché ti ho già sentito un paio di anni fa, e ti ascolto al 100% benissimo. Non so, se ne fa girare cambio. Cala, scusi. Scusate. Ecco qua, Vaffan Napoli. Allora, ecco qua. Ciao Giuni, comunque, saluto che ben sentito. Ti ascolto un po' bassino di radio, Sono saluto, non mi stai ascoltando. Ciao, mega cicata Antonio. Sapevo volontariamente, avanti. Io sono piccolo, comunque dai, no, stavo chiamando perché volevo capire una cosettina e basta, tutto lì. È piccolino, 9.20 sei qua, non sei piccolino, alle 9.40, vabbè, ma ricordo che non è l'antenna. Tu non hai l'antenna, ma avendo l'antenna appunto avevo visto qua segnale lì. Non è male, non è da buttare via, no? Ti ha detto questo, non tu. Giorni, ripeti. No, allora, un rapporto per voi è Gianni 9.40 e Luca anche 9, però... Aspetta, la radio è chiara. Perché l'Antonio, la radio, non riesco a capire bene cosa dice. Ho attaccato un tipo di cambio? Insomma, segnale quasi nuovo è quasi, eh. Se vuoi quasi nuovo per radio molto bassa. Non so come ti ascoltati anni, ma si ancora a lui. Io benissimo, lo sento proprio chiaro chiaro e bene, bella pimpante la radio. Dove si trova lui? Monteoro. No, io sono di fronte a Monteoro, strano davvero. Io sono di fronte a Monteoro, capito, Johnny. Ma però sono Gianni, ha capito più o meno la mia posizione, sono un po' sotto. Buon ascolto. Ascolta, però così, magari innesca, mi ha detto Gianni che innescava così. La neurologia, Luca, cambio. Negativo, no. Ti ascolto, ma è basso. Adesso non me ne scappa. A te Antonio, cambio, con la buona serata e poi girare cambio. Cosa c'è che aggiorni? X. Questo che è rotta strana stasera, ridacci non per nessuno. Kappa gappa. E vabbè. E con gas e con kappa. E via. Con kappa Roger. Oh, iaio. Con qualità. Allora, che si dice di bello? Yeah. Abbassa un po' la radio, che non sei chiaro. O è troppo alto il mio volume, o non sei chiaro tu. Prova a abbassare appena la radio. Aspetta. Guarda un po' adesso, va meglio. Adesso si usa, va benissimo. Che si dice, che si dice? Ma vuole casa? Non so come fai di nulla, sempre impegnato a lavoro. Vabbè, anche quello bisogna farlo già. Vediamo un po', Giorni, va meglio, va bene anche così la radio? Ah, ma no, io ti ascolto bene, no, ti sento bene chiaro, io e Santiago e noi. Tu, Giorni, dicevo che da noi usavano una volta quelle aziende lì, ma non quelle divisionali, no? Delle ditte, no? Quando non c'erano ancora i telefoni portatili così, poi avevano i telefoni, loro montavano per treni grandi. Una zona, non so come la sua vita, ma potevano collegare i loro camion, i loro operai, avevano bisogno di chiamare, ma erano loro professionali, avevano un segnale continuo, quando facevano il segnale parlavano, capa. Ma su che frequenza andava? La 27. Però non erano così tipo le diretti. Avevano un canale, non so, magari un canale riservato, e tenevano una portata con un segnale di facevano questo coso e parlavano e chiamavano un canto di tutti e dicevano ma tu niente qua sta prendendo la ghiaia qua e ti dirai che c'è la capa. Dei canali personalizzati dai, c'è ho capito e io ci sono tanti anni in frequenza però non mi ricordo questa cosa. Ci sono quasi 30 anni. Ma adesso mi sembra che stai dicendo troppo preamplificato. Allora, siccome da noi sono concessi 0,500 mW praticamente, mezzo watt, e la frequenza non era 40 canali, erano pochissimi canali, e gli altri canali, quelli professionali, erano magari non so da 15 a 40 K. Oh, qua prima erano 6 canali, poi sono passati a 23 e poi 40. Poi dai 40 c'è 120, poi diciamo che è all'infinito. Ho capito, a te Luca cambio. E capo. Vabbè. Già, ma ci sei 30 anni per questa, così è? Quasi, sì. Io ci sono... con la concessione l'avevo fatta, ma è stato anche da prima a prima. Ci sarò quasi una ventina pure io. Sì. Io c'è da considerare che un periodo mi sono fermato, però l'apparato l'accendevo sempre lo stesso, sentivo sempre e la domenica una volta ho sentito Mario Mao, sono entrato, c'era anche, come si chiama, che non si sente più adesso, Manolo, e da lì ho cominciato a riprendere. Pure io ho abbandonato per 10 anni, già la c'entra, sempre parte del, diciamo, sempre parte degli anni, capito? C'è quello che lascia, quello che riprende. Ma andare, vediamo un po' Antonio, eppure io entravo prima così, entravo e poi dopo un po' di anni mi sono deciso a riaccendere tutto un po', mi è sempre piaciuto. Anche se io ho detto, diciamo, confronto a noi, su Conta io lo usavo quando c'era mio fratello, prima lo usavamo in motocarro, no? Poi da lì aveva messo a casa, ogni tanto non ci uscivo e ne approfittavo, poi se ne accorgeva sempre perché giocava l'alimentatore mollette. Ma è stato un bel rapino, poi alla fine mi sono rotto le scatole, mi sono organizzato bene, insomma mi ho fatto la concessione, poi ho messo l'antenna, tutto. E è stata mullare, cioè guarda addirittura il Texas. La Fayette Texas, mamma mia, tanti coi che bigliava su Maracchino, una cosa, perché Roberto, allora, Silvia Ridda si spostava, no? Perché era molto vicino a me, se andava sul 30, mi sembra, io stavo sul 14, con Pompone mi ammazzava, su Conta, mi uccideva, non riuscivo a parlarci con Antonello, perché era una cosa impressionante, i colpi che prendevo era parecchio, era allucinante. Poi trovava anche lui, mi Ridda, che come si chiamava, quello con gli occhiali. Marco. Esatto, modulava anche lui. Ma poi allora erano, gli apparecchi erano pure come erano, c'erano molti apparecchi che prendevano colpi. E diciamo che lui l'aveva convinto Ettore Chopin e coso a entrare, e se l'aveva messo anche lui. E a te c'era il capo? Chi? Ettore Chopin. Sì, ne avevo fatto più apparecchi, ogni tanto ne avevamo uno nuovo, li buscava, li aggiustava, si teneva un po' e poi si riprendeva. Sì, come la tua amicizia sarà da, non mi ricordo adesso, mi ci fa un mesetto, su Facebook come amico. E come cognome ho messo? Non mi hai chiamato amicizia, infatti non sapevo che era, capito? Non sapeva io. Aspetta, non mi ricordo, c'è un cognome che è molto difficile. Aspetta. Non lo so io il cognome, non me lo ricordo. Ma sempre conosciuto come Ettore Chopin. Aspetta, te lo dico, io un po'. E a Facebook non va, si blocca già. Ha toccato 2 milioni al poker. Tu conta già, c'è un tris in mano, c'è un 2-5, mi mette l'ultimo 5 in terra, non apre. Cosa fai? Poi l'ho rilanciato, quella scema, non so, non italiana, c'erano due carte di carta in mano, cioè di cui un 4 e un 7, cazzo non mi ha fatto la scala. Sarà stata di chi si rumè, che si sono bravi giocatori. Ma furtivo, ma bastardo. Di concreto non feci nulla, no? È tutto quanto virtuale. Ah, fatto virtuale, sì. Vabbè, ammazzare il tempo, già. Ammazzare il tempo. Che poi li prendono anche, per giocare, capito? Prendo, se te li prendo devi anche guadagnare. No, guadagnano loro. Poi a secondo, quando arrivi, no? Ti riprendono, ti prendono un account, te li rubano praticamente. A mio amico gli hanno rubato 150 milioni. Avanti, giochi. Ma stiamo separando dei vecchi palazzini, adesso le carri giù di un po' difficile che arrivi qua. Dai vecchi Milan, Lafayette, Okai, portati e non portati, mamma mia non me lo dire. Pensa che c'era uno che proiettava in Italia, a Colico. Gazzutas! Mentre proiettava lui, diceva fuori che faceva parlare col portati, e noi lo dovevamo subito in Italia, scappavo. Figurati! e i sottocarici della birra, mi hanno mandato un sacco di roba, non mi hanno mandato un bel roba, io gli ho mandato soldi, le cartoline di sughero, e lui mi ha mandato soldi, mi ha mandato i sottocarici, c'è ancora la QSL qua. Ma uno del settore italiano oppure svizzero, dolce, francese, oppure perché sei, perché ci sono 12 cantoni, capo? Non so, ma doveva essere cantone italiano, penso. E comunque è stato molto gentile, mi ha mandato molta roba, pubblicità, mi ha mandato dei dépliants, di vari posti, eccetera, eccetera. Veramente gentile, una persona. Poi questo Pascal che io sentivo da, in Francia, ci parlavo per più volte, ci ho parlato, sai, io mi destreggiavo a parlare francese, quindi mi piace quando sento qualche francese parlare, e diciamo che con questo Pascal ci parlavo molto spesso. Poi un giorno mi ha mandato la QSL, Luca, ed era praticamente una persona handicappata in carrozzetta. Ma te? Ehi, mi ha mandato la QSL, capito? Luigia, non facciamo sta roba, non va. Non va stare dentro, ma non faccio c'è il computer. Antonio, riprendi. Capo, pure a me mi sta girando le palle. Oggi si è bloccato di colpo, ve lo dico io, perché l'ho chiuso, poi l'ho riaperto e mi diceva, pagina, praticamente non è possibile visualizzare pagina. Niente, ieri era tutto il giorno, tutta la sera che non si poteva connettere, ci sono problemi lì. Mi ha arrivato anche un'email a me che non mi scusa, scusandosi i problemi che c'erano stati, eccetera, eccetera, che cercavano di mettere la posta più presto. Avanti, giù. Ma sto pensando a quello lì che ti ha mandato quella questione di un handicap. Non è che si chiamava Nerone ed era del QTH pure del Santo Ticino, cambio? No, adesso non mi va, se mi spacco la testa non me lo ricordo. Non mi ricordo questo Pascal che mi è rimasto in testa perché ci ho parlato molte volte e mi ha invitato anche a casa sua in Francia. Mi hanno fatto un invito ufficiale dicendovi che mi aspettavo, no? Ho detto che non era possibile andarci perché io non avevo le figlie, quindi già mi avrebbe fatto piacere. Mi ha mandato proprio un invito ufficiale, ha detto che mi faceva molto piacere parlare con me, che mi facevo compagnia molte volte. E purtroppo era una persona, diciamo, che non si poteva muovere e stava tutto il giorno davanti alla radio. C'era una grandissima stazione, bella, con delle apparecchiature super. Sì, da quello che dico io appunto era Nerone si chiamava Samba. No, questo qui Pasquale. Ok, fa girare per gli altri. Luca, mi ricordo una volta che mi hai detto che tipo di apparecchio hai, siccome riconoscevi gli apparecchi del primo sito di modulazione. Dimmi Roger che apparecchio sto usando, K. Ma sei Luca, ciao, immaginati. Te l'avevo detto io. Boh. Cioè non me li ricordo. Non mi ricordo. Non so, stai usando anche l'ecco, confermi. Dammi Roger. Oh, ascolta, forse non ci siamo intesi. Una volta, non so se 2 o 3 anni fa, ti dicevi, quello lì sta usando tale apparecchio, quello lì sta usando tale apparecchio. Dopo ti ho detto, sono entrato io e ti ho detto, che apparecchio sto usando e non sei riuscito a individuarlo, K. Bimbo. Ancora? Non la fai niente quello che stai usando? Ah, no, negativo, un baracchino da paramobile, un portatile da paramobile, però tutto un po' modificato, mi sono divertito io a montare con le app, così. Superstar mi sembra, capa. Superstar, cioè. Che pompa, non glielo vedo. Come ci c'è un sacco di canali, vero? Sì, adesso non lo so, allora 340, 60, sotto, sopra, il bandiera della lista, 360 canali mi sembra capa. Cos'è il 3009? Qual è? È vecchio, c'è più di 20 anni questo qua, c'è più di 20 anni, non lo so, non lo so dove i codici, tipo di c'è più di 20 anni capa. Sì, ma se per stare così, c'è più di 20 anni, però è sempre stato un apparecchio valido, rimane squadrato, con i pomelli cromati, ma fermi. Roger, ma tu sapessi le volte che ha preso sto coso qui, lo usavo anche quando andavo a fare i soccorsi con Carlo Andretti, quante volte mi è caduto, campa. Vai a girare per l'Antonio, Gianni, cambio. Avanti, Antonio. Gappa, gappa. Volevo chiedere una cosa a Luca. Luca! Sì, dimmi. Facebook ti sta funzionando? Nine, no. Megan tu. Manco da me. No, non mi fa entrare. Mi scrive errore, denuncio che cosa. No, no, è un errore da loro, come la dicevo. Gappa. A chi non ci dà se ne fuoco uno barono, ma quando mai pone un coso e non funziona mai. Anzi, certo, ti dirò che è una delle poche volte che me lo fa a me. Gappa. Guarda, non sta funzionando bene questo Facebook. E stanno aggiornando. Mi pare che anche lui hanno fatto. Hanno scoperto cose strane, capito? Hanno scoperto questo tatuatore che faceva vedere le pistole, il coso, invogliando la gente a usare le armi, le volte di tutte queste cose qua, questa porcheria che c'è in mezzo. Gappa, gappa. Ha fatto un po' di casino su questi siti. È sempre per colpa di chi ci bucarotte, cioè ci rimetti tu che magari ti serve puoi fare un po' di usata a faccia. Non sono tanto bucarotti, no, mi pare che io sono mezzo mafiosi. Già, beh, c'è una roba pure, ma poi vedo gente che fa carezzare. Avanti! Johnny, tu che ne pensi? Tu su Facebook ci vai? No, è meglio di no, se no lì diventa difficile complicata la cosa. Ci sono i miei figli che ci vanno, già mi dicono, papà, dai video, ma ce n'era abbastanza da fare il giardino io, e le riparazioni ultra, svolta a vai, come si dice lavoro nero, cappa. Non ti piace il computer, là? No, mi piace, però non so, magari vedere con qualche cosa, magari mi danno un titolo, una cosa, andare a vedere, non so, magari delle macchine, modelli di vecchio, moto, così, non mi conosco di moto, però fino a un certo punto, è meglio che non esagero, capa. Io un amico che ritira le Vespe, se le rifà tutte a nuovo completamente, sia di motore che di carrozzeria, me le manda le fotografie come le ha ritirate e poi me le manda dopo che le ha fatte, tutta una cosa diversa. Poi io c'ho un amico, ma lui con le mucci, sai, incredibile, va a prendermi a Milano, le porta su, le smonta, le taglia tutti i raggi, i balconi, ancora con i portafucili dei carabinieri della polizia, quei vecchi, di 500, c'è il carabinino, c'è tutta la serie delle mucci completa, c'è qua. Quelle che hanno il volano, che sono la fettatrice di quelle antiche. Quelle lì non sono facili da trovare, capa. Sa se dice, in Piazza dei Segni quando facevano il mercatino addirittura c'era una che ci aveva così prigionieri le valvole che si vedevano esternamente, le valvole del motore. Sì, sì, ma le conosco, quelle lì erano inglesi, quelle motori erano le Nordo, capa. Poi ce n'era una che aveva il cambio tutto particolare a mano. Danilo anche l'aveva sull'osservatorio tre marce, tanto che la parte di piazza della mia. A te Luca, cambio! Capo, due secondi già, ripeti tu, sto facendo una verifica su un driver che non mi va, aspetta. Ma sono qua che sta ascoltando. Antonio, tu già l'hai vista in Piazza dei Signi, vero? Già. È molto antica. No, mi sembra, no, forse una volta. Sì, una volta che me lo ricordo che ti ho trovato con Pierpaolo. Ti ha pagato. E comunque lì c'era un mercatino dell'usato oggi. Faceva il mercatino dell'usato, attrezzi antichi, tutte queste cose qua. Ci mettevano in fila tutte le moto, c'era. Non so se ti ricordi il lui, la moto lui. No, questo nome non mi dice niente, moto lui non mi dice niente. Se ti vuol dire, l'anno scorso a Cagliari, una domenica, un mercatino di usato, ma tu mi dici, ma quanta roba avete, ma come si fa a vendere certe cose lì che magari sono tanti? Ma funziona ancora, 10 euro, 8, 20, 20. Ma io ti dico, magari c'è una Vespa, qualcosa di sempre, magari sono il telaio, sono il motore, magari lo compro, ma devi vedere, ma che roba impressionante sta fatto. Io ho visto vendere pezzi arrugginiti, gente a comprarli a pezzi esorbitanti, 150, 200 euro, ferri strani e cosa. Questo qui ha detto che si restaurava e per lui dice che erano un tesoro, libri vecchi, ma cosa te ne fai? Io ne ho più questa roba di mio padre, è morto l'anno scorso, 96 anni, quindi era del 12, mio padre, immaginati quanta roba aveva. Ma no, ma questa roba qui di Cagliari è impressionante, mi sono rimasto stupito di vedere queste cose lì, uno che sta lì tutto il giorno lì a vendere, ma un pezzo di ferro veramente arrugginito, una griglia, un pezzo, certe cose non sai neanche cosa sono. Ma cos'è questo? Io non l'ho mai visto, un porpone, una roba strana veramente. E se vado ancora, perché probabilmente torno ancora, magari un prossimo che voglio ancora andare a vedere questo cosa del mercato. E fai girare, cambio Luca, te. Antonio. Ma no, non si è tenuto niente, ho già. Cioè non si è tenuto niente tu. Di che cosa? Il libro vecchio o qualcosa? Sì, io c'ho sta roba, non è che c'ho poca roba. C'ho il martello antico di quando faceva il cartolaio, c'ho il treppiede, ho attrezzi tipo la lisi, queste cose qua, c'ho libri molto molto antichi di mio padre. La Bibbia di tanti anni fa, c'è molta roba. Quello lì c'ha un valore grande. Lo so. Ne ho parecchi libri, non so, di quei libri. Libri anche di catechismo, roba del genere, perché mio padre era catechista, era molto religioso, e insegnava il catechismo, queste cose qua, c'è tutte queste cose qua, il Vangelo, tutte queste cose qua, con le pagine gialle. C'è anche libri di storia, molto vero. E ne ho, ce li ho conservati, niente, soldi antichi, un po' di tutto ciò. Certo. Io sono molto appassionato di tutto della storia. Le chiavi, quelle grandi, che sembrano le chiavi del paradiso, non so se ce le presenti. Quelle lì le ho regalate un paio anno, quello di fronte, perché lui è appassionato di roba antica, e le ho regalate, quello lì è un mantello di mio padre, ma lui me l'ha detto già, adesso lo metto qua nella barchetta dove c'è tutta la roba antica, se un giorno dovessi ripensarci è sempre qua. Gaffa. Dunque una cosa bella. A me sono molto, molto appassionato di queste cose qua, sapere come funzionava una cosa vecchia, tutte queste cose qua, poi sapere la storia d'Italia, la guerra, ci sono molto, a me piace molto la storia. Guarda, non ho trovato il trapano, mio padre aveva un trapano a mano, che lui usava proprio, che giravi la manovella e trapanare. Da mano, brutto antico. Perché no? Non l'ho trovato più. Non riesco a non so dove sia finito. Strano. Probabilmente a casa di mamma, quando hanno buttato via tutta la roba, che è morta mamma, magari hanno buttato, era nella soffitta, perché lui c'era, praticamente mio padre c'aveva un suo palco, il bagno, che faceva la soffitta, ci metteva tutta la roba di postini, roba, no, la roba che non serviva, o la roba che non usava spesso. Chiappa, e forse si era dimenticato di controllare. No, lì non ho proprio controllato. Mi è proprio sfuggito, se chi ha preso la cosa si è ritrovato tutto qua. Sicuramente l'avrà dato puro, ma con le cucine non è che... E lì di sicuro c'era la cenza, la sega che tagliava la legna perché avevamo la stufa a legna, tutta quella roba lì. Ragazza, e sicuramente ce l'ha tenuto pure il magazzino per fatto e poi. No, Antu, quel suo palco, quel suo palco in bagno che era grande, non era piccolo, ci sta un bel rompo. Chiappa, sicuramente era Achille. Ecco, e lì lo usava anche per metterci la legna, tutte queste cose qua. Quando serviva la legna la scendeva, capito, per non lasciarla in giro. Avanti, giù, qua. Per i libri mia moglie senz'altro ne ha, e mia moglie è una collezionista, avrà sicuramente libri ancora vecchi, Manzoni, altro che 40, 50, 60 anni. C'era un prete lì, dove li chiamo noi, Sucri, voleva, non gli abbiamo voluti dare, ma sono forse come valore proprio non hanno tanto, però è troppo forte, vedete, sono diventati tutti gialli, tutti stranissimi. Bon, per quanto dicevi poi della chiave, io mi ricordo di quelle chiavi di gialli, quelle chiavi grandi grandi, infatti quando andavo a ballare io, me la portavo sempre a prendere, ce l'avevo sempre in tasca, no? E quando poi scrivevi un pochettino diceva, cos'è questa roba che fuggi? La chiave di casa, a te cambio. mio padre ci aveva, ma tu probabilmente sei, quanti anni manchi la Sasa? 45 K. Ma mio padre ce l'ha vecchiata. Tu portavi un è mai frequentata quella zona lì? No, capito, sono andato via giovane, ti ho raccontato l'altra volta, io giovane, appena finito la perdita non mi hanno più dato posto di lavoro, dopo sono emigrato, cappa. Vabbè, comunque, mio padre era uno dei cartolai più famosi di Sassa. La mia madre sicuramente lo conosceva, cappa, Quindi il cartolaio di Porta Utile, il signor Mario, e probabilmente se ancora si trova tua madre, no, se lo ricordo. Ma no, mia madre non si trova più, però aveva dei problemi con le scarpe, andava a tasse, sempre avanti e indietro, sicuramente che andava da lui, adesso non voglio dire, ma una percentuale superiore che andava da lui a fare delle scarpe, non so. Poi aveva clienti a San Giovanni, a Divani, a tutte le parti. Sì, non ne scusa, io non me lo ricordo perché come ti ho detto sono andato via giovane e dopo ho perso un po' tante cose, non mi ricordo più, adesso l'ultimo mio amico mi dice poi non me la sento più niente, ma che non lo so, io dico Marco. Tu, ma Antonio, da dove modula? Perché non so, modula anche lui da Sassa di K? Sì, dalla Perugia. Sai che c'è un palazzo che tra lui e me disturba la frequenza, K? Diciamo che Antonio sta uscendo anche con un antenino di macchina, non ha l'antenna sul tetto, capito? Quindi magari anche quello. Ah, Roger. No, perché l'altro giorno lo sentivo più forte, adesso lo sento un po' più basso. Però io posso provare a spostarmi, magari mi sposto un metro, magari lo mi senti su te, mi sente lui, K. Io ti sento tutte le parti, perché l'antenna c'è sul tetto. Ah, Roger, ok, va bene. E tu fai girare per Antonio, dopo io mi assento, faccio cuore, e a te ancora cambio. Quanto ripeto. Cappa. Non lo sento perché c'è il QRM troppo alto, se dopo spegni il televisore vedi che io lo sento. E che l'altro giorno lo sentivo, purtroppo se accendo il televisore no, non lo posso sentire. È un casino. È un casino. Se ti fa correre, ma è logico. Sì, vabbè, sono parlando a dieci, cosa... Vabbè, questo è forte, non mi crea nessun problema, Luca è forte, non mi crea nessun problema. E gli altri che cominciano ad arrivare 8, così, no, non riesco più a sentirlo. Magari lui mi sente anche bene, hai capito? Lo sento la voce non tanto chiara, però il segnale, boh, logico, non è come quello degli altri, capa. Ho detto che la voce non è tanto chiara, che è troppo amplificata. No, questa è una buona radio. Capito se è la sua o la mia, capa? No, io stavo dicendo a Antonio che tu non lo senti molto bene di radio. No. Forse non ci si è abituato a sentire la gente con l'eco, però questa è la mia modulazione. A non dire che non esce bene questa radio è difficile. Non penso che, cioè, questa qui non è radio che esce male, no? No, ma rimbomba un po', cioè io con il mio apparato la sento un po' rimbombante, no? Ma sento quella bella radio chiara chiara, adesso io ho spento il mio coso qui, perché questo qui va benissimo come radio anche normale, a parte quando si rompe qualche filo del macchine. Ok, e ancora sei Gianni? La mia è amplificata, come la senti? Forte, l'avevo detto prima, quando sei entrato andava bene, adesso è troppo forte, si sente quasi l'eco che rimbomba ancora dietro, capa. Adesso l'ho tolto l'eco, come va? Per parlare qui è meglio così, sinceramente, capa. Pagato. Questo qui è un buon microfono, È un buon microfono, mi ha dato delle belle soddisfazioni. Lo fa, guarda a vedere senza eco, vedi se mi intendi più bene. Non ho capito cosa c'è, se mi sente più? Più bene. Penso più bene. Una voce grossa, ma non è percepibile al 100%, non è una radio chiara. No, io avevo un mic da tavola su un apparato buono, una stazione che avevo su, carichetti, era una favola, c'era una favola, capa. E cosa era? Che microfono era? Non mi ricordo, era un portatile, lo mettevi sul tavolo, schiacciavi un bottone, tu giravi, andavi in cucina, facevi quello che volevi parlare, ti sentiva sempre al medesimo livello, capa. Anche io ce l'ho la BB più 5 con l'altro apparecchio, ma non penso che sia da paragonare, sicuramente era qualche Turner. Ma parlo di tanti anni fa e dopo quando ho venduto la stazione ho venduto l'apparato, ho venduto il Flora lì che ti ho detto, che ho preso anche un paio di scorse e ho dato via tutto, capa. Da casa ti ho potuto completare? Sì, no, non pago fino alla concessione, ho tirato via tutto, se non parlo. Non vedo, non parla più nessuno, no? Tu accendi il barattino, che c'ho anche portatile così, che lo usavamo quando andavamo in montagna, senti qualche camionista che passa, anche qualche sardo, ogni tanto, e basta, non parlano più nessuno. Fagappa. E in Svizzera la concessione com'è? La concessione era 500 milliwatt, canali in AM, se no potevi fare, io avevo anche un'altra concessione, avevo una concessione 40 canali, 4 watt in FM e costa 40 franchi all'anno, capa. Maria? Non so, facciamo adesso che è sceso un po' che è sceso l'euro, e 25 euro, capa. E ne paghiamo la metà, 40 canali. E abbiamo MFM. L'avevo, dopo a un certo punto non usavo più, lo tiro di Z e ho fatto sparire un po' anche gli apparecchi, che se mi arrivano a casa a fare il controllo che arrivi dunque vado a chiamare, ma non c'è beccato poi di volta lo vedo. E che multa mettono, salate, ma non è italiana la polizia postale, è svizzera. No, allora, per intervenire a casa non può entrare da noi alla Pittichino, porta e telefoni, no? Dove paghi anche le concessioni della Cinque Bande, Bande Cittadine, come le chiamano così, però non possono venire a entrare, allora devono contattare un agente della polizia comunale, cantonale, e a quel momento lì che arrivano lì, quando dobbiamo entrare in casa dobbiamo vedere, lì c'è una concessione, c'è un apparecchio che percepisce, questa lì sono entrati, l'apparecchio era attaccato e non era concesso, questa signora reclamava che ritrovava, come ti ha detto, si fa fuggito l'apparecchio e più una multa della Madonna, capa. Mi hanno messo una multa allucinante, ma che qua se ti beccano un apparecchio non omologati e quella ha ragione. Infatti io non, quando vado adesso, quando vado via così o a Olbia o a Cagliari, prima lo tenevo sempre in mano con l'antenina dentro il finestrino, c'è un'antenna che la metto appoggiata così, no? E a parte che fischia, però non mi servono i carabinieri, mi iniziano a chiedere concessione, ce l'ho, non ce l'ho, che scritto la concessione non è valida per lei, se lo adesso, mi metti dietro nelle gavole, allora preferisco lasciarlo, lo butto giù in cantina e via, capace. Non è valida per l'Italia, per dire, se vieni in Italia non puoi usarlo. Solamente per la comunità elvetica, non per la Svizzera, capa. No, qua non c'è nessuna, nessuna cosa, come si chiama, proibizione, eccetera, eccetera. Io penso che si possa usare da tutte le parti. La macchina italiana, c'è la concessione italiana. Adesso quei camionisti che vengono su, degli italiani, francesi, belgi, lì ne passano più della nazionalità, non so come funziona, però nella concessione c'è scritto, c'è una clausola con scritto, questa concessione rilasciata a nome della chiamata 631-633 con un codice che poteva fare anche mia moglie, e valida solo nella cappa. Sono particolari, per noi per dire c'è AM, FM, ci sono tutti e due, 40 canali, l'apparecchio deve essere omologato e paghi 12 euro. Beh certo, tu la paghi qua la concessione e poi modulare tranquillamente. Perché quello è vero. Non ti invadere, non stai invadendo nulla, non stai pagando, cioè. La paghi da qui e modo legge in Italia, la paghi di là e vale quella di là, cosa c'è? È così. Ma lui non è che per un mese si può pagare la concessione. Non so, vabbè, comunque, non ti fanno niente. E dipende chi trovi sempre, non tu, dipende sempre a chi trovi. A me per dire, un posto di blocco dalla polizia mi ha fermato, hanno subito messo una testa dentro la macchina con la pila, hanno visto il baracchino, hanno detto cosa fa, modula, hanno detto sì, devo vedere la concessione, hanno detto no, non sto chiedendo perché è interessante, mi piacerebbe averla anche a me. Non mi sembra come dice Gione, la modulazione è come adesso l'ho rimesso l'eco. La prima adesso. No, va bene, tu, per me va bene, la verità. Ma magari lui non è abituato a sentirlo. Non lo so. Siete sempre con le modulazioni tranquille. Ne? Per me così è chiaro, è così, radio 5 al 100%, è percepibile al 100%, capa. A te Antonio, cambio. Tu, ti sta rilanciando. Non lo sento, cosa ha detto? Che adesso la radio è buona, è percepibile al 100%. Chiappa, volete capire prima, adesso l'ho messa come era prima, me l'ho messa. Non lo so, è sempre questa, è sempre la mia radio, da qualche, c'è quasi un anno c'è questa radio qua, è sempre lì. Qualche volta uso un altro apparato, ma di solito la radio principale è questa. Ma io prima lo sentivo rimbombare, adesso lo sento molto più chiaro, non so, qualcosa è toccato, capa. A te Gianni, cambio. Ha detto che prima se li sentiva rimbombare, adesso non si sente più rimbombare come prima. Che va bene, dai, interessante è quello. E comunque ti stavo dicendo, quella persona là che tu vedi, ma c'è quella, quello lì c'ha microfoni antichi, apparati di tutti i tipi, da quelli base a quelli per vettura. Ma ne fa la collezione o li vende anche, cambio? Fa la collezione e ha detto che qualcuno l'avrebbe venduto anche. anche quelli dubbi, siccome neanche i dubbi li avrebbe venduti. Ma tutti funzionati, tutti bambini, la verità. E qualcuno gliel'hanno mandato messo male dall'America. Ancora quei tipi americani? No, se mi stabilizzo un po' più qua mi interesserebbe avere magari un apparato, un po' di qualche collegamento ancora come una volta ai vecchi tempi, capa. Perché tu cosa vuoi? Tornare qua? No, no, te l'ho detto, è negativo assolutamente no, però magari vengo giù più spesso, magari vengo giù, magari rimangono giù più di luglio, agosto, settembre, poi ritorno ancora su. La moglie però deve vedere le sue nipote e così chiede per ritornare su per forza. Tutti sposati i figli ce li hai? No, ho capito, scusami. Ho detto, i tuoi figli sono tutti sposati. No, no, ce ne ho solo due, uno è sposato e l'altro è ancora mammone, 30 anni a casa, capa. vabbè, capa. E loro l'italiano non parla? Sì, noi siamo nella scuola italiano, poi nella scuola hanno fatto il francese e poi il tedesco, però si parla italiano, capa. Ah, lui aveva cercato il italiano dimenticato. Comunque, diciamo, siete vicini, dai, non è che sia così lontano la Svizzera. No, ti ho detto, non so se te l'ho già detto, che praticamente io da Bellinzona, lungo 141 km a Genova, con la mia macchina, con la macchina di mia moglie, arriviamo giù, prendiamo il traghetto e la notte ci dorme sul traghetto, la mattina sono qui a casa, capa. Quindi è abbastanza vicino, là. Come Sassari-Cagliari, no, 200, sono praticamente da Bellinzona dove abito io sono 241 km al porto dove prendo il traghetto, mi mangio il dinero e lo prendo, capa. Cioè, va bene. E quindi, sì, non lo so se io lo vedo, lo sento, io dico, un giorno ci andiamo e magari te lo dice quello che sta prendendo. No, sono quelle che spendere capitali su cose così che poi magari sull'anno non la usano più e qui magari c'è una possibilità di fare ancora qualche collegamento, di parlare ancora con gli amici, se tanto lo fa ancora piacere, scappa. Ma questa estate c'è la propagazione. Io ho parlato un po' con tutto Francia un po' di meno quest'anno, più Spagna, con la Sicilia, con Trento, Treviso, tutte le città italiane. Roma, ho collegato Roma, che è difficile parlare con Roma l'acqua. Dappa, noi avevamo un'uscita di là, adesso stiamo facendo i macchiari di Ancari, l'Antonio, per prendersi un altro pennello. E con Brasile, sì, c'erano delle ore di notte, arrivava il Brasile di pazzesco, di San Paolo, così di tremendo, ma bomba arrivavano su, Sì, sì, ma anche qua un periodo si parlava anche con Brasile. Anche ne abbiamo fatto dei collegamenti anche con l'isola delle Canarie, eccetera, eccetera. Per quelli di colleghi, quelli di colleghi. Tu fai girare per il collega Antonio K, che mi sposto magari un metro indietro o un metro avanti, cambio. Avanti, altro. Anche io, là, anche se non ho antenna molto, è grande, però io ci sono riuscito a fare collegamenti. Vabbè, quando c'è la propagazione, già va bene, ti sentono per livello di propagazione, non per l'antenna. Cappa, ce l'ho, comunque, anche io me ne sono tolte le soddisfazioni. Cappa, mi sono spostato, Io una volta dalla Svizzera parlavo con uno della Valtellina, da Santiago 0, Santiago 1, Santiago 2 sono arrivato a Santiago 9. Mi sono solo spostato un metro indietro. Gianni, mi ascolti ancora? Io ti ascolto sempre, bene. Allora, ti sento un po' meglio adesso. Anch'io ti sento meglio, anche alla radio. Adesso ti ascolto molto meglio, Cappa. Cappa, non so cosa hai fatto, però non sento meglio. Si è spostato. Adesso riesco a sentirti. Che camper c'hai, Giorgio? Non è una camper. Dov'è? È una macchina. Limousine. carro funebre. Quella a 14 sposti. No, se ti muovi è la medesima carrozza del carro funebre esattamente, K. Ma tu l'hai sentito poco fa che cosa ha raccontato giù? No, non ho sentito. Che macchinaggia! No, non so, sta scherzando adesso. Comunque gli hanno fatto uno scherzo, un CB che sentiva osse, che sentiva sempre dalle sue parti, che diceva di essere italiano, che salutava tutti, amici italiani, fatemi trovare in verticale, quando si troviamo in verticale, un giorno si sono trovati, e che cos'era? Uno col carro funebre, gli ha detto che aveva anche due tippe, era uno col carro funebre perché c'era due tippe, due cadaveri di ragazze che sono morte in un incidente. Si doveva essere esaurito. E si era buttato in vada bella, bambino, sì, bubu. Quando si è fatto che non c'era nessuno, invece no, con la gente. Trasportava cadaveri questo di gente che moriva da una città all'altra. Capa, magari per non prendere la manicomia le pune a fare chi. E allora? E vada qui, andava a dare appuntamenti, cadere con un carro fuori, vedete che come c'è il carro fuori, a tre giorni ci ha toccato io . Appena, mi sono spostato un po', poi però c'era un attimo che non sentivo più te, sentivo Gianni più basso, K. 25, sì. Ascolta, Gianni, l'anno scorso io, siccome quando sono qua giro, vado in bici o in macchina, sono andato un giorno, che c'era il vento, a Coscia, come si chiama, Coscia di Donna, da Stintino, Coscia di Donna, Liscia di Donna, Coscia di Donna, bisogna si chiama. Tu conosci questo posto, K? Certo, lo conosco. Però vicino a me si è seduto uno che aveva la tua voce a sentirlo parlare, K. Bello. Lo conosco come posto, ma non ci vado quasi mai. E di solito a Stintino vado alla Pelosa. Vediamo che siamo andati lì a questo posto, Coscia di Donna, come si chiama, no? È arrivato uno con una macchina germanica, colore chiaro, e adesso anche vicino alla mia macchina, dopo era con una signora, sono venuti lì, sono fatti il bagno, sono mangiato il panino, però io ascoltavo un po' parlare, ma sai che mi sembrava che era proprio la tua voce, K? Io, come ho detto, una macchina germanica già ce l'ho, però io non ho per quindi. Potevo essere io, ma poi ho detto Chiara, non è Chiara, la mia è scura, è brunotte. Io ce l'ho per la station vero. Ma no, questa qua era bianca e mi sembra che era una. No, era bianca tappa. Diciamo di, guarda che io non scherzo, la mia macchina è un carro funebre, ma non fatto a carro funebre. È una medesima marca del carro funebre, perché ho lavorato per 30-40 anni per quella società lì, e però è quattro porte, col portellone dietro, tappa. Non marcia adesso. Ma quelli di quelli squadrati antichi? C'è 10 anni, è una E-Caravan, una E-Caravan è un 430 K. Ah, K. Ma prima è stato un carro funebre? No, quelli lì, praticamente la società Daimler Benz fornisce la carrozza nuda, senza il tetto, senza cosa, dopo, così come la vettura uguale, e vanno in Italia, noi li potevamo fare in Italia, e viene montato il coso per il casco, però la carrozza è quella, capa. E vabbè, più o meno come fanno i furgoni, che li mettono il frigo, li mettono accendi, eccetera, eccetera. È vero, oggi, tutti quanti, mia sorella vuole sempre salire di dietro, dico, mamma, aspetta, non salire ancora, non è ora salire di dietro, capa. Antonio, cambio. Alleluia. Ciao, sai che sono molto stanco già. Ciao, sono appena bioccato. Cosa stavate dicendo? E stava parlando della sua macchina, che assomiglia a un carro funebre, che ha la forma del carro funebre, si apre dietro, eccetera, eccetera. e quando la suocera dice che si può sedere dietro, dice guarda che ancora non è ora. Cioè, io trovo quella legge. Vabbè, quindi non pensate a queste cose, lui lo giù. Nel capo, no, anche voi è veramente un carnagione, è troppo grosso, adesso che siamo i bambini, non abbiamo più quelli piccoli, siamo solo io, la moglie, dovrei prendere una macchina un po' più piccola. Ma non so se rimango sulla medesima marca, mi sa che ritorno ancora sull'Audi. Io ho avuto tantissime Audi, sono stato sempre contento. E ritorno ancora sull'Audi. A te capa. No, mi fa della bella macchina. Aspetta. Ma non sono piccoline, dai. Non so, ma che non sono utilizzati, no? No, io ho avuto, praticamente ho lavorato anche lì un po' di anni, ormai te l'ho detto gli anni che ho, e ho lavorato per la Volkswagen, per l'Audi, per la Porsche, per tante marche, così, per la Peugeot, per la Mini. E l'Audi ho avuto tra l'Audi 80, l'Audi 100 carburatore, l'Audi 5 cilindri, l'Audi 100 CT, l'Audi 100 quella squadrata, quella rotonda, l'Audi 100, e l'Audi AC, l'Audi A6, fino all'Audi A6, l'ultimo Audi A6 ho avuto. E dopo lavorando lì, direttore di lavoro, dove stavo dicendo il mio cognome, come gli dici, devi comprare un Mercedes, scappa. Ti ha detto lui di prendere il Mercedes? No, il mio datore di lavoro praticamente, noi abbiamo l'agenzia, noi avevamo, hanno ancora, io purtroppo sono in pensione, abbiamo l'agenzia della Mercedes, Daimler Benz, compresa con la Chrysler e tutta sorbita, che sono sposati e poi stavano divorziando, non so cosa è successo. Poi la Chrysler aveva nella Dodge, ci abbiamo tirato dietro di quella, così che abbiamo la Mercedes, la Chrysler, la Dodge e la Smart. Siccome la Dodge era, non so che cosa è successo con la Mitsubishi, e certe Smart avevano motori Mitsubishi, adesso non vengono più costruite, abbiamo ritirato male tutti i camioncini, abbiamo 5-6 garage, nel tutto il caso vicino, così che abbiamo quasi 10 società di auto, capa. Aspetta, deve essere una bella azienda. Quando inizia a pagare 100 operai penso che se prendono la paga che prendevo io, Gianni, non so cosa vuol dire, non so, 6.000 franchi al mese, saranno come 4.000 euro e 100 operai sono una bella paletta, cappa, Già non credo. Così già fa piacere lavorare. Io sono sempre contento, almeno ho sempre fatto il mio mestiere, come ti ho accennato l'altra volta, mi sono arrangiato sempre le mie possibilità e nei miei corsi, di aggiornamento eccetera eccetera, però io facevo solamente la Mercedes-Benz, le altre erano addetti ad altri operai, non magari nel nostro garage, in un altro garage. A te Antonio, cambio! Ma non ho sentito proprio fare due colpi di portante, però sono molto molto molto vicine. Però mi fa un grande favore perché almeno mi sento meglio. E toglio il cuore almeno. Papa, non lo so, io non ho sentito niente, a te Gianni cambio. Però io, forse è vicino a lui proprio, sarà noi proprio di intorno con qualche portatile. Senti ragioni bene. No, adesso l'ho sentito anch'io. Gappa, lo senti su un altro canale? La gappa. Ma da me sicuramente è vicinissimo, ma non disturba proprio, no. A me lo metto io il QRM, che è fastidioso. Ecco. La gappa. Avanti Giuseppe, buonasera. Buonasera Gianni, buonasera a tutti. 73 cordiali a tutti voi. Qual buon vento Giuseppe? Vento di tempesta. E come mai a quest'ora stai facendo il pipistrello? Pagava, uccendo il bosco. Ciao Giuseppe, hai sentito dopo tanto? Siamo in compagnia dell'amico Giuni, nonché sassarese emigrato in Svizzera, ogni tanto viene qua a trovarci. E poi di Antonio Pombo. telefono, so che ci sia, l'ascolto, ci sono tante regioni. La K. Salutiamo Johnny e ben sentito anche Antonio. Avanti chi vuole. Buonasera Giuseppe. Ciao Antonio. Non so se ti mando alcune cosette, Antotto, già lo sai che io per 2 settimane sono solo e quindi come rientro mi devo preparare tutti i cose. Vero. La signora con la bimba è partita avanti. Gaffa, è tu. Organizzato una festa, guarda, palloncini, ho comprato anche quei tricky track, quelli che girano. È pagato. Danni, magari ho fatto piacere, si è sentito anche se su a casa tua. Beh, no, possiamo organizzare qualche cosa, un po' di donne e via. Appaccato, proprio qui a casa, tanto non vede niente nessuno qua. Sto scherzando Giuseppe. Giovi, avanti. Ma ciao Giuseppe, buona serata, ben entrato, cordialità 5283 e 8351, ben ascoltato per la prima volta. Tu, ma non si usa, dici donne Gianni, non si usa più la zimminata, non si trova più neanche il zimmino, porca miseria. Tu Gianni, stamattina sai, ho fatto un giro in bicicletta e ho visto vicino al portatore, io ero con un trattore con l'antenna GP, dimmi qualcosa, cambio. Sarà qualche barra agricola, sì, ci sono anche dei trattori. Vado su 40 quelli dei trattori. Porca miseria, sono rimasto stupito quando ho visto questo trattore con su questa antenna CB lunga lunga sul tetto. A te Antonio, cambio. Se quella persona lì già te ne accorgi subito perché ha un pochettino la voce strigola, dai. Se Salvatore. Invece Salvatore con tutti i campagnoli, gli amici suoi, dai. Quelli del 40. In tutti i modi lì io sono sceso appunto da qui, poi sono andato in Monte San Giovanni, sono andato giù, sono andato a Marciangoletta, poi sono sceso verso. Dove c'era lì quel ristorante grande che è chiuso? Mediterraneo, ecco lì, era lì, in quelle zone lì, questo mio contrattore, K. Allora, pensi che sia lui. Sarà barra agricola. Perché l'ha ballato, Sara? Stava modulando. So, io ero in bici, K, non lo so, ho visto solo l'antenna, mi sono messo a ridere, dico, guarda sto trattore con l'antenna. A te, Giuseppe, cambio. Lui ha l'antenna e anche il lampeggiante e ogni tanto se lo mette in testa. Chi ti sta ascoltando? Barra agricola, vieni fuori un brutto delinquente che non sei altro. Guarda, se entra lo senti per forza. Lo senti per forza, soprattutto a me che mi chiama Bombolina Bomboletta. E a cucisciare la braghetta. Dove mi chiama Gianna Nannini. Bombolina Bomboletta, e tu me lo dici, a cui si accagarebbe. Cappella! Bombolina Bomboletta! Così mi chiama. Sono parecchio tempo senza sentirlo. Ogni questi giorni provo a vedere, a salutarlo almeno. Perché avevamo l'accordo. Uno di questi giorni, mentre starando, gli attacchiamo l'antenna del paracchino con il bostic sulla cappotta. QTC per Giuseppe. Bisogna un QTC da farti. Cappa. Ho fatto un'altra telefonata, mi ha detto che sono alla fiera, che come torna non gli chiede tutto. Cappa. No, sperando che ho persino tardo, almeno me lo restituiscano. E già mi sono fatto sentire questa volta, ho fatto le 22. Cavolo, tutta la cosa che avevano, mannaggia, se l'avessi saputo l'avrei lasciato dentro la scatola. Qua io non te l'ho fatto portare da Vittorio perché c'è un bidilavoro e cose un po' lungo, perché sennò ma te l'avrebbe finito prima, molto prima di lui. E sta tranquillo che se te lo fa Vittorio te lo fa, non lo fa tutti, lo fa gli amici e basta. Ma dovrebbe mettere le mani lui, sta tranquillo che la cosa funziona bene pure. Dammi un controllo su questo 48 Gianni. Sì, ci sono. 2.30, sì, dai. La radio è buona? 9.30 buono. E a te, amico Giorni, come ti sono arrivato? Io non so come siano le tue coordinate, se sei qui Sassari, Sassari oppure circondario. Il circondario è Monte Oro, zona nascosta. Che ti vuoi dire, anche te più o meno, che se mi arrivi qui a bomba e sei qua vicino, K? Ma diciamo io sono qui in zona Sacro Cuore. No, sì, ma una zona molto buona, forse un po' in altura, perché arrivi sparatissimo, eh? Arrivi, non per dire, più forte del Gianni, K. A K, e a te Bolloni. La voglia è andare più forte qua, sei quasi a fondo scala. Ma io guarda, l'ho preso questo apparecchio, il 48 plus, e ti dico che mi sta dando qualche soddisfazione questo apparecchietto. Buono, buono. C'era anche Gianni. Uguale al mio ce l'hai già. Come? Uguale al mio. Sì, ce l'ho uguale al tuo. Poi che gli ho messo le BB+5 io, invece che mettere quel microfono l'ho messo le BB+5 e probabilmente arrivi più con quello. L'eco va bene, mi capite così, sì. E io? Perché stamattina questo microfono ce l'avevo in barra pesante, però tutti si lamentavano per l'eco, dice che era troppo forte, eppure l'avevo toccato, lui è sempre a due. Va benissimo. Attaccata, avanti Giorni, riprenditela per attaccata. Si riprende. No, io vi sento bene tutti adesso, c'era appunto Antonio prima che lo sentivo un po', mi sono spostato appena l'ho centrato, lo sento bene anche lui. E... no, Giuseppe arriva, vedi, arriva forte, è chiaro e limpido, è rimbombante K. Positivo Johnny, positivo. Questo qui è un apparecchio che ogni tanto riposa. Niente, forse quando l'accendo è contento, qui invece sta sprizzando onde da ogni transistor questo baracchino. Capito, non so se hai rilanciato a me, capa. Sì, riprenditela tu Johnny, vai tranquillo. Gianni, dimmi quando innesca, Ascolta, mi sembra che fai il camionista, conosci degli amici del, aspetta come, Oristano, Marco Mer, che vanno su oltre cancelli, fanno viaggi internazionali, fanno Olanda, Spagna, Francia, passano sempre su da noi, troppo forti, se non devono essere due fratelli, K. Dovresti dirmi di che scuderia sono. Non lo so, mi ricordo forse di quelle Z che quando parlano li senti subito che sono sardi, dopo io ogni tanto entro a salutarli, ma vanno molto in Olanda, vanno K. Ma sei sicuro che siano di Macomero, zona nuorese? Cosa sono degli articolati frigo? No, sono di Macomer, perché parlano un po' quell'accento, con quella cadenza li sento, e poi un giorno gli ho chiesto, forse siete sardi, sento, siamo di Macomer, K. K, io ne conosco un po', però hanno, diciamo, la base a Nuoro, nella zona industriale di Nuoro e della Nugor Plor, quelli fanno l'Olanda. Non so, non mi hanno mai detto il QRZ e se sono quelli, no, ma non credo quelli di Vigneto, quelli di Giuliano, quelli altri, di così, no, devono essere qualcosa di particolare, ma niente, non era così. Perché ho provato a chiamarli quando vado in su così a Macomero, ogni tanto vado a Cagliari così, ma non li sento, magari sono sempre in trasferta. A te Antonio, cambio. Non lo so. E chi è che sta dicendo? Giuseppe. Dimmi un po'. Chi è che sta dicendo a quelli che scaricano il camion? KK, è sicuramente una scuderia di Macomer, che ci faranno viaggi nazionali e internazionali. Però sto pensando, perché ce ne sono diversi a Macoverre, e conosco stavo dicendo a Giorni, una scuderia che è abbastanza grande di Nuoro, e quelli fanno proprio i viaggi internazionali, vanno su in Olanda, però hanno gli articolati con la Cella Frigo. Quelli sono molto organizzati, insomma. Sì, qui si ha livello di avere l'appartamento in cabina. Giorni e giorni viaggiando, qualche cosa si devono fare. È corricchiato, Perché giacca con i piedi? Guarda che qua appena qui si mettono la funzione dei servizi e si lavano. Appena che trovano, non so se, giustamente devono attendere un pochino, però ci sono i posti dove lavarsi. Su non sono come qua da noi in Italia, e quando vai fuori all'estero ci sono proprio, trovi caselli, trovi, ma adesso non mi viene dalla fretta di dirlo, non mi viene la parola, e proprio attrezzati, ci sono proprio le cose di sosta per i camionisti, e trovi di tutto e di più lì. Autogrill. Autogrill proprio con attrezzati, in più a quanto sei a parte la voce si lucidano anche i tappini delle ruote del camion. No, negativo, sono proprio zone di sosta autorizzate, oltretutto sono anche vigilate, non parlo qui in Italia, sto parlando dell'estero. Ma no, è vero, questa roba qui è vero, e infatti mia moglie lavora nell'autostrada, in autobandi, e quando si fermano, non so, 10 metri 30 camion, lì tutti vogliono fare la doccia, qui si fermano, però guarda che hanno anche delle grandissime grane, almeno quando passano, una volta c'è un incidente nella galleria, da San Gotardo, rimangono un giorno con la cella frigo, che non possono andare, sono disperati, devo scaricare, e la roba mi va male, un'altra volta nevica, la strada è bloccata, l'autostrada, e rimangono una notte a dormire in un posto perché vengono fermati nei parcheggi, così, passano, ti portano il tè, c'è un servizio, tutto, però è una vitaccia, campa, A te ancora Giuseppe Cambio. Ma campa, condivido, è proprio una vitaccia, mestiere, diciamo zingari della strada. Roger, confermo. Gianni, riprendilo, puoi girare cambio. Giuseppe ne sa qualche cosa. Vabbè, Giuseppe rientra in giornata, non è di quelli che viaggiano per giorni e giorni. Attacca, ma in 25 anni già me ne sono sbranati un po' di chilometri. Furina. Appa, sono ancora un attimino io. In tutti i modi, guarda che io ne sento tantissime. E praticamente c'è un ricevitore segnamento sotto le bande pulizia, carabinieri, tutta la banda marina, banda cosa, la banda aerea, e senti la pulizia fermato uno, loro mettono il dischetto girato, prendono di quelle multe, ma di quelle multe quando mi sento, ma 2 euro, 1000 euro di multa, capa. Il continente si apre a tratto però, Già l'ho girato un pochino anche su, intanto che basta. Comincia a fartene 15 giorni di seguito su croc. E così, Ma so che anche qua in Italia ci sono quei posti di dove la fate. E ci sono gli autogrilli, ce ne sono di comodi anche. Uno bello che ho trovato è tra Genova e Milano, un autogrill, guarda, è stupendo, addirittura passa anche sopra la superstrada. Dove ci si può lavare? C'è anche la doccia, c'è. C'è tutto, doccia, c'è di tutto e di più. Tranquillo che proprio per la pulizia, se uno ci tiene alla pulizia, tranquillo che posti per lavarti li trovi. Ragazzi, è brutto mi stare tanti giorni senza lavarti, mi affiago, Ti dico, ti ho detto così della cucetta perché abbiamo fatto quell'impressione, sono salito sul camion di un continentale che veniva da noi prima, adesso non sta più valendo. Va bene, va bene. Quindi non si può dire che c'è la casa. Allora quello era uno sporcaccione. Mamma mia che odoraccio. Cioè, perché gli ho chiesto di farmi salire perché avevo preso il camion nuovo, il trattore, e mi ha detto che questo qui c'aveva le sedine particolari, non so come. Come ti siedi in base al peso della persona, faceva e la d'aria, cazzo che forte, si alzava o si abbassava. Zero, ha fatto buono qui a Caudearo. E quelli ormai sono i sedili che ci sono in circolazione, quelli ad aria. È bello, forte, stava così bene. Si prende proprio in base al peso, si equilibra, tipo Eli Press. È come quello che ho io nella macchina che ho io. Fortissimo. Giorno. Anche Giuseppe è un autista. Giorni. Oggi ci sono. Ora, e questi sedili vengono montati anche a richiesta su anche veicoli piccoli, non so come Mercedes, Fogliano, eccetera, eccetera. No? Uno che sta tutto il giorno, che trasportano, ma sicuramente c'hanno questi sedili, perché sennò oggi la sera sono fogliati. Regolabili, qualcosa di che pianto, si regoli qui. Un autista sale un altro e viene regolato completamente. Oggi di voi stiamo parlando prima delle autostrade dolci, bagni, eccetera, eccetera. Guardate che cari miei, in Italia ci sono certi posti che fanno paura, ma in Francia c'è da aver paura per massimo un autogrill, c'è da aver paura perché non solo di farti la dolce cosa, ma ti rubano anche la nafta dal serbatoio, capa. Quello lo fanno in tutti i posti e non solo la lampa. No, se posso ti rubano anche il camion, gaffa. Sì, io so di un mio collega che è stato mobilizzato in cabina, legato con un altro portacchi e niente, è portato via il segno di merito, agganciato con un altro trattore e mai più ritrovato. Noi abbiamo avuto un problema con due clienti, uno faceva trasporto di gioielli con una macchina blindata, ma come fanno a sapere, ti curano, ti vedono che ti fermi a fare benzina o qualcosa così, no? Lei sono corsi dietro, all'ultimo ti sono scelti, e qui c'erano i cani Doberman alla pistola, e l'hanno immobilizzato al momento il meno immaginabile possibile, l'hanno fatto scendere dalla macchina, gli hanno fregato la macchina, e non si sono accorti che sulla macchina c'era un navigatore satellitare con segnale su tutto il coso. Hanno trovato la macchina dopo non so quante ore con non so quanti fusi rubati in questo autoparcheggio, capo. Quella è gente che sa. Lo seguo, vabbè, sono in movimento. Attaccata. E poi ci sono le soppiate, sai, gente che conosce magari il tipo che commercializza quel prodotto lì e poi va a finire che ci scappa la rapina. Magari detto anche involontariamente, capito? Casino. Ecco, il mio collega sicuramente sarà stato qualche soffiata perché era carico di fibre ottiche. C'era un valore di un pacco di soldi su quelle semi rimorchi. Ma non l'hanno più ritrovato, non hanno trovato manco il semi rimorchio più. E quelle cose che quando sono colpi studiati bene e poi lo butti dentro un capannone e lì sul continente ce n'è una miriade di capannoni. Lo prendi con calma e prima fai fuori tutto il carico, poi se vedi morto lo camuffi come vuoi, ti cambi le sponde, gli puoi cambiare anche i cerchi, fai quello che vuoi e lo rimetti di nuovo in circolazione. Beh, tanto quelli non sono immatricolati. Sono immatricolati, hanno il loro libretto, ma già riescono a fare tutte le cose che riescono, perché anche qui autotrasportatori, qui in Sardegna cambiano sempre i rimorchi come che stai cambiando dal giorno alla notte, metti un libretto sull'altro e stai camminando. Invece hanno anche il metodo per funzionare di nuovo, i numeri. Come si faceva nella Vespa, si tagliava, si girava. Sì, quelli che lo facevano io no. i ladri che lo facevano li funzionavano di nuovo e via. Riprendo anche a tu. La gamba. E così stavo cercando, un attimino me lo date, che stavo cercando il gatto, non riesco a trovarlo. E vai, vai tranquillo, intanto. Quanti giorni? Poveri animali, mamma mia, quanti li vedo tutti i giorni quando vado in giro. E si vede che proprio non gli hanno fatto la patente per il direttore delle strade, ma tantissimo, proprio schiacciati, uno volta. Avrò visto almeno 4 disimpioni, sono nella zona andando verso Porto Torres, così nella strada legge, tanti morti, mi fanno veramente bene. Tu, io vi ringrazio del QTO, della buona serata, della bella chiacchierata, e 51-51-51, e QRT da parte mia, ciao ciao, a te presente cambio. Senti, buongiorno, ricambiate tutto al 100 e buon 144 anche a te, avanti Gianni. E io aggiungo, dai, dai. Da me ti sei abbassato il radio, non so per gli altri, comunque ti saluto e ti auguro una buona giornata per domani e grazie per il QSO, dai, ci sentiamo, fa sempre piacere fare questo tipo di QSO. Di Antonio Bomolo, ce la risentiamo tutta alle prossimine, grazie anche da parte mia per il QSO. Eccolo qua Giuseppe, eccolo qua. Domani che cos'è? Venerdì? Domani è venerdì tutto il giorno. E tu alla fine? Ma sei vicino domani? No, è fissato, mamma mia. Domani già sono qui in zona. Oggi mi sono sbaraccato, Olbia, Arzachena, tutte quelle zone lì. Ma sono rientrato però, veramente stanco. Ma il traffico già è abbassato, eh? Sì, è meno, come traffico è meno, però ancora ce n'è. Mi è per Paolo, mi avanti per la buonasera. Fuggio, capo di Fuggio, con la speranza che mi ascoltate ancora, ecco. Buonasera, mi hai sentito, KKK, qui che va al centro. Va tutto bene. perché con questo cavolo di ascesi, insomma, già sono abbastanza fastidiosi, mannaggia. Anche perché io in questi giorni non sono entrato, perché adesso essendo anche da solo, come arrivo mi devo anche organizzare un pochino. Adesso vedi, ho trovato un tempo per potermi sedere e farmi una chiacchierata, perché tra una cosa e l'altra, bene o male, la cena la devo preparare. Però passano troppo in fretta. Passano molto in fretta, perché cosa ne vuoi più lenti? Magari adesso gli faccio un vaglio agli altri 500 euro, stato su altri 15 giorni. No, adesso sono i primi giorni e poi inizio a mancare, eh? Ogni tanto si sente, ogni tanto scoppia un palloncino qua. Mannaggia, c'è Veronica, capiti che è un casino che il resto basta. Non posso immaginare, hai ripeti Gianni. Ho detto Giuseppe, busca un po' di donne. Ci mettiamo a ballare. Tanto qua non vede niente nessuno, hai capito? Tanto lo vedi che entra e chi esce, ma la schinciola sembra che la gente non si abbia i denti. Peso di curraccia, chi? Cacca, quello lo puoi dire a voce alta. Sulla faccia di un culo, so. Antonio, chi si vorrà di pure qui addosso? Ma è per l'ascesso, a fare quel coso che avevo detto io, non faccio il tempo. No, spaiuto, non ho fatto quello che ho fatto, ci faccio la ringhita di nuovo, la ringhita di metà e tutto a posto. Cappa, quello è sempre la medicina migliore, è sempre stato un toccasana quello. Faccio pure le mutande, Cappa, allora sai come ti ho detto io. Zorro. Ma che ti ha dato cosa? Una spaiutata. E su si andiamo. Di uno e dell'altro, ma non è possibile. Beh, i muri sono fini qua. Ehi, vabbè, fini quanto vuoi, ma che io dentro casa mia non posso farmi una chiacchierata, che ne so, con mia moglie, che tu devi stare lì a origliare dietro il muro. Ma è così, ma sei con le cuffie? Ehi, allora posso dire, se sta ascoltando, io sono un troppo di chi si gatta dalle milioni a notte, vedi lì, intendi lì, va va. Più di uno. Una di uno. Ah, Antonio, devi essere di prosperoso proprio a me, e dire ciacca. Sì che sta a fare da stampare un muro. Oppure quelli Gianni, se riesci a fare un buchetto nel muro e mi si lo zacchi dentro, la bocca, e mi dici, che cos'è questa cosa? E via, via. E vabbè, c'è per il petto vivere. Cosa sarà per tua moglie, Cosa? Divorzi. Cioè io dico questo, ma dentro casa mia devo avere limiti perché mi cioè questo pazzo me li impone. Ma casa, qui scambio per due giorni di casa, già. Ha fatto mettere anche in bacchetta di non far rumori. Nelle ore notturne, eccetera, eccetera. No, questo aveva scritto, rumore di terrore, questo aveva scritto. Ma è una cosa, ma a chi è quello che sta di fronte a te questo qua, no? No, non è quello di fronte a me, quello del portativo. Ma no, se lo descriviamo lì, dove abita questo, casa serena. Tollerante, sì. Cazzo intollerante, no, mi sembra più magma. Io vi saluto, me ne vado a letto perché ve lo stanno imponendo, quindi me ne vado a letto. Mia moglie si è corretta, quindi vuole silenzio. Accanto, vai. E io vi seguo, ce la sentiamo domani, dai, non ci sta problema. Ciao, ciao Giuseppe, c'è anche attento, ci sentiamo, buonanotte. Poi gaffa, dai, buonanotte Gianni, buonanotte a te Giuseppe. Ciao, buonanotte a tutti. Buenas noches. Ciao Antonio, ci sentiamo presto. Buonanotte e buon trabacco per domani.